torniamo, ma in realtà non ce ne siamo mai andati, perché nel corso dell'anno abbiamo fatto tutta una serie di attività, siamo stati presenti con i nostri temi, portando iniziative diverse in città, però torniamo con il festival vero e proprio, insomma 3 giorni ricchi di eventi di ogni tipo in giro per tutta la città di Modena. Vengo al claim utilizzato questo anno, la finanza etica non è fantascienza, cose di questo mondo, cosa vuol dire? Insomma, abbiamo continuato a giocare come già l'anno scorso sul tema della fantascienza. Questo perché spesso quando le persone sentono parlare di finanza etica ci guardano storto, e la finanza etica sa tanto di ossimoro, la finanza non può essere etica, la finanza è inevitabilmente nell'immaginario delle persone The Wolf of Wall Street, insomma. Noi vogliamo invece dire che la finanza etica è qualcosa che esiste, che non è fantascienza e che è per l'appunto una cosa di questo mondo, e lo dimostreremo raccontando esperienze e storie che dimostrano concretamente in che modo la finanza può essere etica e può aiutare concretamente le economia reale a svilupparsi, a crescere. Tra gli appuntamenti puoi farci qualche esempio di temi che prenderete in esame? Ma parleremo di legalità e finanza e anche di beni confiscati, e avremo anche ospiti illustri, insomma per esempio Pietro Grasso, ex magistrato nonché ex presidente del Senato. Parleremo di finanza al femminile e di quanto la finanza ancora sia, ahimè, uno strumento molto maschile e che non lavora sufficientemente per l'inclusione delle donne. Parleremo anche di alternative a questo modello di sviluppo. Avremo Fabrizio Barca e Clara Mattei che dialogheranno per capire se siamo condannati a morire capitalisti oppure se ci sono delle alternative a questo sistema nel quale viviamo. Parleremo di cibo e finanza, lo faremo mangiando. Lo si può fare per tutto il mese di ottobre in una ventina di ristoranti che hanno aderito a un progetto che abbiamo lanciato insieme a Slow Food Modena, che si chiama Valori in Tavola, dove è possibile gustare piatti legati alla tradizione modenese ma sostenibili da un punto di vista ambientale, climatico, ma anche sociale ed economico. Quindi con poco maiale, insomma, sembra strano, ma si può fare. Si può fare anche a Modena. Queste ultime cose che hai detto mi danno lo spunto per constatare che c'è un'altra conferma, ovvero il fatto che il festival utilizza diversi linguaggi, da quello dei panel, ma c'è anche arte, c'è anche musica. Esattamente, c'è arte, c'è una mostra fotografica che abbiamo inaugurato venerdì e che è aperta fino a domenica all'ex albergo diurno in Piazza Mazzini, quindi in pieno centro di Modena. Sabato sera avremo la finale del concorso Eticanto, si esibiranno i 4 finalisti da cui usciranno i 3 vincitori di questo premio, per il quale abbiamo invitato artisti emergenti a scrivere canzoni sul tema della sostenibilità da diversi punti di vista. Sì, differenza di linguaggio perché la finanza è una cosa antipatica, ostica, difficile e respingente, e invece le persone devono occuparsene, perché la finanza è una cosa che riguarda tutti noi e quindi è assolutamente importante che ce ne occupiamo, e scegliere linguaggi diversi, modalità diverse, è un modo per avvicinare le persone e fare capire loro che la finanza è qualcosa che ci riguarda da vicino e di cui dobbiamo per l'appunto occuparci. Dove trovare il programma completo? Festivalori.it è il sito, c'è tutto lì sopra, ci potete contattare per chiedere informazioni, ma insomma è tutto chiaro. Abbiamo anche una piccola preview volendo nei due giorni precedenti, perché mercoledì facciamo un incontro con le testate giornalistiche che aderiscono al progetto di Greenpeace Stampa Libera per il Clima, e quindi dal Fatto Quotidiano alla Svolta, noi di Valori, Green Me, Altra Economia e insomma diverse altre testate, ci incontreremo per parlare insieme di come si fa a fare corretta informazione sul clima senza avere finanziamenti dalle aziende del settore delle fossili, e per elaborare progetti da portare avanti insieme, perché la battaglia per salvare il clima passa anche da una informazione corretta, ben fatta e libera appunto dai condizionamenti dell'industria del fossile. E giovedì pomeriggio abbiamo un panel che coinvolge Banca Etica, Viper Banca e Emil Banca sul tema della tassa degli extra profitti bancari e della funzione sociale che le banche dovrebbero avere e che andrebbe forse riscoperta e rivalorizzata.